voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. My art has been commended as being strongly vaginal, which bothers some men. The word itself makes some men uncomfortable. Vagina. Oh, yeah? Yes, they don't like hearing it and find it difficult to say, whereas without batting an eye, a man will refer to his dick, or his rod, or his Johnson. Johnson? Si è aperta da qualche minuto la seconda parte del terzo volume di Eclettica. La prima si era chiusa con Soul Seppi, seguita da All Love in Poland, e questa seconda parte invece si è aperta con The Early Years, quartetto londinese. Beh, a tutti gli effetti le loro precedenti prove erano state registrate come trio, solo di recente la formazione si è allargata a quattro. Come di recente è uscito The Great Awakening, un mini, a seguire il loro album d'esordio mini, che contiene il brano appena ascoltato, Say What I Want To. La testa. La telefonata, però, non riesco più a ricostruirla, non riesco più a riprendere il punto in cui da chiacchiera, francamente banale e relativamente armoniosa, sulle piccole faccende domestiche, si è trasformata in questo momento da tregenda, da fine del mondo. Riesco a ricordare com'è iniziata, quasi parola per parola. Io. Ehi! Lui. Ciao, come va? Io. Bene, bene. I bambini, tutto a posto? Lui. Sì, Molly è di là che guarda la tele, Tom è da Jamie. Io. Ti ho telefonato solo per ricordarti di scrivere una giustificazione per Molly, da portare a scuola domani. Spiega che è stata dal dentista. Vedi? Vedi? Penserete. Non si può, non da qui, ma vi sbagliate perché a noi è andata così. Sono quasi sicura che il primo passo è stato fatto qui, in questo punto. Per come lo ricordo ora, c'è stata una pausa, un silenzio pesante dall'altro capo del filo. E poi io ho detto qualcosa tipo «Come?» e lui «Niente». E allora ho ripetuto «Come?» e lui di nuovo «Niente». Tranne che si sentiva benissimo che non era confuso né divertito dalla mia domanda, solo stizzito. E ciò significa, lo sapete, che bisogna insistere. Così ho insistito. «Dai!» «No!» «Dai, su!» «No!» «Che cosa stavi dicendo?» «Che cosa stavo dicendo?» «Che avevi chiamato solo per ricordarmi della giustifica di Molly.» «E cosa c'è che non va?» «Sarebbe carino se avessi chiamato per qualche altra ragione.» «Magari per dire ciao, per sapere come stanno tuo marito, i tuoi figli.» «Oh, David!» «Che significa, oh, David?» «Che è la prima cosa che ho chiesto, come stanno i bambini.» «Sì, va bene, come stanno i bambini, ma non come stai.» Questo era ancora l'incipit di Come diventare buoni, di Nick Hornby. Trusted. tell you it's the last thing that I wanted. At the twilight's last gleaming, we'll open our eyes. A dream of conviction. Goodbye. Speaking of which, do you think that you could give me my $20,000 in cash? My concern is, and I've got to check it with my accountant, but that this might bump me up into a higher tax. Grant, give him the envelope. Oh, well, you've already got the check made out. That's cool. We'll be right back. Subito dopo l'intelligente brano dei Carpaccio che unisce melodia a ironia, ci siamo ascoltati due tracce che era da un po' di tempo che non ritornavano all'interno di Eclettica. Prima Chris and Carla, ovvero sia gli ex Walkabouts, e poi Transam. E colgo l'occasione per ricordarvi come il dettaglio, sicuramente più preciso rispetto alle poche informazioni che io do in onda, lo trovate nella playlist di Eclettica o su myspace.com/eclettica alla fine di ogni settimana, oppure sempre alla fine di ogni settimana direttamente nella vostra casella di posta se vi iscrivete alla lista nera scrivendo a giulio@radiorockfm.com. Ora vediamo di orientarci verso il futuro, verso il 21 di maggio, quando uscirà per la K7 il nuovo DJ Kicks, una compilation in cui democraticamente i 5 Hot Chip hanno messo le loro scelte. La DJ Kicks è una serie di dischi in cui diversi artisti vanno in pratica a far capire quali sono le loro influenze. Nel caso specifico, tra electropop e Detroit Techno, tra house e hip hop, tra drum and bass e R&B, tra blues, jazz e anche Joe Jackson. Tutto questo costituisce in pratica il background degli Hot Chip e, come tradizione vuole, però all'interno di queste compilation compare quasi sempre anche un inedito di chi appunto compila il DJ Kicks. Mai pieno, loro sono gli Hot Chip. ti imbarchi in discussioni come queste quando le cose vanno bene. Non è difficile immaginare che in altre relazioni, messe meglio, una telefonata che cominciasse così non dovrebbe e non potrebbe portare a parlare di divorzio. In relazioni messe meglio, una faccenda come quella del dentista la sbrighi in un attimo e passi ad altro, la giornata di lavoro, i programmi per la serata o addirittura, in un matrimonio che funziona in modo spettacolare, qualcosa che è successo nel mondo. Argomenti tanto comuni quanto trascurabili, ma argomenti che formano la sostanza e forse persino il nutrimento di una relazione comune, trascurabile, amorevole. David e io, invece, non siamo in quella situazione, non più. Le telefonate come la nostra si svolgono soltanto quando hai passato parecchi anni a ferire e farti ferire, fino a che ogni parola pronunciata o sentita viene tradotta e caricata, complicata e riempita di sottintesi, come in una commedia disperata e brillante. In realtà, mentre ero lì, sdraiata e sveglia nella camera d'albergo a tentare di rimettere insieme i pezzi, sono rimasta anche colpita dall'abilità con cui avevamo inventato il nostro codice. Ci vogliono anni di miseranda ingenuità per arrivare a questo punto. Questo era ancora l'incipit di Come diventare buoni di Nick Hornby. Eclettica. stagione numero 13, settimana numero 33, volume numero 3. Indice. Laundrette, Michael Andrews, The Ladybug Transistor, Soul Seppi, Urlaub in Polen, The Early Years, Carpaccio, Chris and Carla, Transam, Hot Chip, Un Addare,